Le ultime decisioni del governo confermano un'impostazione nuova della legislazione sul lavoro volta ad offrire opportunità di integrazione occupazionale. Sull'articolo 18 le novità sono significative. La reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di licenziamento ingiustificato viene sospesa sperimentalmente per 4 anni per le imprese che fanno riemergere rapporti di lavoro clandestino, al fine di consentire ai lavoratori assunti oltre i 15 dipendenti di essere regolarizzati, nonché per favorire la trasformazione di rapporti a tempo determinato in impiego stabile, sebbene, questa è la novità, ai soli fini delle imprese che operano al sud. Tra 2 anni sapremo se le attese del governo corrispondono o meno alla realtà. Più che di diritti occorre discutere di opportunità di lavoro e di qualità dell'occupazione, il resto è solo sterile polemica. È quasi sera, Marco Biagi sta raggiungendo Bologna con il treno interregionale, proviene da Modena dove insegna all'università. Biagi è tranquillo, parla con altri suoi colleghi, ma in quel momento 2 uomini delle Brigate Rosse gli sono seduti proprio accanto. Alla stazione di Bologna Biagi arriva alle 19.40, scende dalla carrozza, cammina lungo il binario 1 del piazzale ovest della stazione di Bologna. Intanto i 2 brigatisti lo seguono a distanza. Biagi si trova fuori, in piazza Medaglia d'Oro. Attraversa la strada, la piazza, attende il verde del semaforo e taglia di traverso la strada. Entra nella galleria 2 agosto, ritrova parcheggiata la sua bicicletta. I brigatisti in quel momento accendono uno dei 2 telefoni cellulari acquistati mesi prima. Nell'apparecchio è già attiva la scheda prepagata Wind che i terroristi comprano in modo regolare da un rivenditore. L'impulso viene captato da una cella telefonica in via Massalo e via Goito, a Bologna. E ora provate a immaginare, la scena si sposta e anche la nostra visuale. I 3 killer sono già sotto l'abitazione di Biagi. 2 indossano i caschi integrali, attendono il professore sopra un motorino di colore scuro. Tra loro fanno finta di parlare. Il terzo a piedi, a volto scoperto. Quando vedono arrivare Marco Biagi, risalgono di qualche metro la via, proprio come per andargli incontro. Il terzo resta immobile sul limite del porticato davanti all'entrata. Sorveglia la strada. Sono le 20.05. Numero 14 di via Valdonica a Bologna. Marco Biagi si trova proprio davanti al portone, lega la bicicletta, posa la borsa di pelle nera sul pavimento, sta per infilare le chiavi nella toppa, sono le 20.06, solo una voce acuta giunge alle sue spalle. Professore, professore, Biagi si volta di scatto e comprende ciò che accade, 6 colpi vengono sparati da una pistola 9x17 tipo corto, una Makarov, una Franchilama, sono 6 proiettili che fermano il cammino di Marco Biagi. Abbandonato sullo scalino al civico 14 di via Valdonica, in pochi minuti, quella sera di 19 marzo di un anno fa, una borsa di pelle nera smise di essere la borsa da lavoro di Marco Biagi per diventare il reperto numero Y degli investigatori. C'era tutto il suo mondo in quella borsa da professore lasciata a terra, sotto casa, accanto alla bicicletta caduta su un corpo ormai agonizzante. C'erano proiezioni, cifre, studi di quel libro bianco a cui stava lavorando da tempo. C'erano i suoi documenti di docente di diritto del lavoro a Modena e Reggio Emilia. C'erano soprattutto le sue idee di giusto laborista, consigliere per la Commissione europea, consulente del ministro del welfare Maroni, così come prima nei governi di centro-sinistra, Di Treu e Bassolino. C'era il suo ultimo editoriale, pubblicato proprio quel martedì, sulle colonne del Sole 24 Ore. Chi frena le riforme contro l'Europa era il titolo. E favorire le riforme era stata sempre la costante del pensiero di Biagi, dai tempi in cui, insieme al collega Massimo D'Antona, mise mano alla legge sugli scioperi, introducendo sanzioni più severe per le proteste illegittime, fino al patto di Milano nel 99, l'accordo tra comune e sindacati su forme di flessibilità per i senza diritti che portò alla spaccatura con la CGIL. Il suo volto divenne più noto al grande pubblico nei giorni difficili delle polemiche sull'articolo 18 e della messa a punto della riforma del mercato del lavoro, prologo della delicatissima delega ora in discussione in Parlamento. Di quella riforma che negli ultimi tempi era diventata per lui sinonimo anche di paure e dispiaceri, a causa di quell'angoscia di sentirsi allontanato dagli amici di sempre, lui di cultura socialista, Marco Biagi era profondamente orgoglioso. È il primo grande tentativo, disse pochi giorni prima della morte, di modernizzare il mercato del lavoro italiano. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il 20 marzo, l'allora ministro dell'interno Claudio Scajola conferma. Sono state le Brigate Rosse, stessa modalità operativa dell'omicidio di Massimo D'Antona, avvenuto, lo ricordiamo, il 20 maggio del 99. Sono quelle le ore che le IBR inviano la rivendicazione dell'omicidio di Marco Biagi attraverso un messaggio di posta elettronica. Ma attenzione, per effettuare l'operazione i brigatisti utilizzano un sistema nuovo, un computer, un cellulare acquistato regolarmente con una scheda prepagata, una casella di posta elettronica. Tac! Il messaggio giunge in poco tempo a 500 indirizzi diversi. Il giorno 19 marzo 2002 a Bologna un nucleo armato della nostra organizzazione ha giustiziato Marco Biagi, consulente del ministro del lavoro Maroni, ideatore e promotore delle linee e delle formulazioni legislative di un progetto di rimodellazione della regolazione dello sfruttamento del lavoro salariato e di ridefinizione tanto delle relazioni neocorporative tra esecutivo, Confindustria e il sindacato confederale, quanto della funzione della negoziazione neocorporativa in rapporto al nuovo modello di democrazia rappresentativa. Una democrazia governante che già accentrante nell'ultimo decennio i poteri nell'esecutivo e nella maggioranza di governo. 6 luglio 2000, fallito attentato alla sede della CISL di Milano di Via Tadino. Il documento di rivendicazione firmato Nucleo Proletario Rivoluzionario contiene un passaggio specifico al lavoro svolto da Marco Biagi, il patto di Milano per il lavoro. Scattano i primi provvedimenti di protezione, il questore Finazzo comunica al suo collega bolognese Argento che Biagi insieme agli estensori del patto sono nel mirino delle BR. Così dal 25 luglio all'11 settembre il servizio scorta si estende a Bologna, Milano, Roma, Modena, ma il 9 giugno 2001 gli viene tolta la scorta a Roma. E il 2 luglio Marco Biagi invia un messaggio di posta elettronica al sottosegretario al Ministero del Welfare Sacconi. Lo stesso giorno Biagi spedisce una mail a Stefano Parisi, direttore generale di Confindustria. Caro Stefano, consentimi di ricordarti di intervenire con la massima urgenza sul questore, come dicevi, ma meglio sarebbe il prefetto, per ripristinare la mia tutela anche su Roma, confermata nel resto d'Italia. Mia moglie è allarmatissima e anch'io sono molto preoccupato. Voglio continuare a fare le cose che ci piacciono, ma non vorrei che le minacce di Cofferati, riferitemi da persona assolutamente attendibile nei miei confronti, venissero strumentalizzate da qualche criminale. A risentirci domattina. È un lungo calvario quello di Biagi. Email come queste ce ne sono molte. Si arriva alla 12 settembre. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza decide di non ripristinare la scorta a Marco Biagi. Poi il Ministro dell'Interno, Claudio Scajola, taglia il 30% dei servizi di tutela e di scorta in Italia. Biagi non è più protetto. Però quelli sono i giorni in cui sta perfezionando Libro Bianco sul mercato del lavoro e sono i giorni in cui i brigatisti lo hanno già condannato a morte. In quei giorni Marco Biagi parla con gli amici, confida di aver paura, si presenta in questura, prefettura di Bologna e di quelle di altre città italiane. Alla fine la procura di Bologna chiuderà l'inchiesta accertando le responsabilità degli apparati dello Stato nella mancata scorta Biagi. Nessuna conseguenza penale, solo di carattere amministrativo. Seconda traccia, gli omicidi di Massimo D'Antona e Marco Biagi vengono eseguiti con modalità molto simili, lo abbiamo detto, identica l'arma utilizzata, una pistola calibro 9 tipo corto. Il comando operativo è formato da 3 persone. A Roma e a Bologna agiscono 2 killer, 25 e 27 anni. La fuga con i motorini di piccola cilindrata, la telefonata ai giornali che annuncia la diffusione di un documento di rivendicazione. Terza traccia, i latitanti delle BR, Simonetta Giorgeri, Carla Vendetti, Guido Minon, Giuliano De Roma, Marcello Tamaro Dell'Omo, Enzo Calvitti. Al gruppo della direzione strategica si devono aggiungere Nadia Desdemona Lioce, arrestata dopo la sparatoria sul treno interregionale Roma-Firenze, Nicola Bottone, già arrestato 8 giorni prima dell'omicidio di Marco Biagi. Quarta traccia, gli irriducibili detenuti nelle carceri speciali di Latina e Trani. Avrebbero scritto materialmente i documenti di rivendicazione degli omicidi di Massimo D'Antona e Marco Biagi. Penultima traccia, gli operativi. Ci sono regolari e irregolari, divise in cellule composte da meno di 10 persone. Nessuna brigata, neppure colonna. Mario Galesi, l'uomo ucciso in un conflitto a fuoco sul treno interregionale Roma-Firenze, era il brigatista che rappresentava la cerniera tra i latitanti e gli operativi. Ed è proprio quella sparatoria sul treno interregionale Roma-Firenze, con l'uccisione del poliziotto Emanuele Petri, del brigatista Mario Galesi, l'arresto di Nadia Desdemona Lioce, l'ultima e determinante traccia del nostro racconto. Notte tra il 24 e il 25 ottobre 2003, il blitz della polizia azzera le colonne toscane e laziali delle Brigate Rosse. Cinzia Banelli, Roberto Morandi, Simone Boccaccini, Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi rappresenterebbero, secondo i magistrati di Bologna, il gruppo di fuoco che ha ucciso il 19 marzo 2002 in via Valdonica 14 barra a Bologna il professor Marco Biagi. Armando Spataro fa parte del pool di magistrati che stanno indagando sul nuovo terrorismo brigatista. Alla luce della lettura dei documenti di rivendicazione degli ultimi tragici attentati, che io individuo un nesso e una continuità tra l'azione e tra la struttura delle vecchie Brigate Rosse e quella delle nuove, e soprattutto il documento di rivendicazione dell'omicidio Biagi, anche quello di D'Antona, mi paiono ovviamente con tematiche aggiornate ripercorrere schemi già noti, anche un frasario. È ovvio che i temi di riflessione tra virgolette di questi assassini si aggiornano, e quindi è chiaro che la globalizzazione, che era un tema inesistente negli anni 70 e negli anni 80, assume centralità, così il centro diventa anche tutto l'insieme delle tensioni nel mondo del lavoro, che certamente esistevano anche in quegli anni, ma non hanno oggi la valenza addirittura politica di linee di demarcazione tra un modo di fare politica e l'altro che oggi hanno assunto in Italia. Thank you.